Si comincia domani con una mostra. La mostra si chiama Cartoline da un luogo memorabile. Questa è una mostra che si iscrive in un lavoro che la Minari ha iniziato nel 2009, che si è maggiormente concretizzato nel 2015, ma che continua ogni anno. Facciamo degli appuntamenti appunto dedicati all'archivio di comunità. Cartoline da un luogo memorabile hanno iniziato il loro viaggio nel periodo del lockdown, in cui abbiamo cominciato a immaginare come potevamo fare per mantenere comunque accesa la relazione con i cittadini del Pilastro, con i nostri spettatori, con le persone che collaborano con noi e con le realtà associative di quest'area. E quindi abbiamo cominciato a stampare delle cartoline, 18 esemplari, e le abbiamo distribuite per le 4.200 famiglie del Pilastro, proprio per avere anche così un'occasione, magari da lontano, per avere modo di rivedere, di rimappare il territorio. E successivamente abbiamo pensato di realizzare in collaborazione con il settore cultura un allestimento di grandi manifesti, manifesti di grandi dimensioni che da ieri sono appesi per la città di Bologna in molte aree della città. Si chiamano Saluti dal Pilastro, quindi una sorta di installazione temporanea, artistica, che saluta l'intera città a partire dal Pilastro. Poi invece domani ci sarà l'inaugurazione della mostra sul materiale fotografico dell'archivio di comunità di Laminarie e quello di Cineteca, che condividono questo progetto insieme, per cui ci saranno fotografie tratte dalle origini del Pilastro che documentano appunto la fondazione, e fotografie invece dei giorni nostri. La cosa, diciamo, che abbiamo tentato di fare in questa mostra è proprio quello di mettere molto vicine fra loro le stesse fotografie, dalle stesse angolature rispetto appunto alle fotografie storiche, proprio per marcare in maniera molto, molto evidente la rigenerazione sociale, culturale, urbanistica che ha attraversato questo luogo. Ogni appuntamento però di questa rassegna è scandito ed è reso importante da interventi dal vivo, proprio perché in questa fase riteniamo molto importante che gli artisti tornino in qualche modo a attivare una relazione con il pubblico. Per cui durante l'inaugurazione della mostra ci sarà anche la possibilità di seguire una sonorizzazione commissionata appositamente a Dimitri Sillato, che è un musicista polistrumentista, delle immagini che sono presenti nella mostra. Volevo parlarvi invece delle tante attività che abbiamo dedicato all'infanzia. Si comincia con un appuntamento dedicato a Gianni Rodari, un momento di riflessione, anche però questo sempre accompagnato da un'attività di spettacolo dal vivo, musicisti che si esibiscono dal vivo, che abbiamo scelto perché hanno partecipato a un progetto particolare di Francesco Locane, che ha ideato e curato questo Rifilastrocche in cielo e in terra. Insieme a Francesco Locane, i musicisti Francesca Bono, Andrea Gherardi e molti altri, avremo anche Matteo Cavalleri della Fondazione Gramsci Emilia Romagna. All'incontro parteciperanno anche Federica Iacobelli, che è una scrittrice, Andrea Mancini, che è uno studioso di teatro che ha scritto molto su Rodari. Quest'altra iniziativa che ci sarà il 24 di ottobre, che si chiama Un'aula e un giardino, perché insieme ai servizi sociali educativi del quartiere, insieme al centro di volontariato sociale e insieme all'istituto comprensivo 11, abbiamo realizzato nel giardino di pertinenza del Polo Panzini un'aula che non a caso abbiamo realizzato con i praticabili del teatro, dedicata all'attività didattica delle scuole che sono di fianco a noi, e anche un giardino che, diciamo così, è stato realizzato intorno ai 10 alberi che sono stati piantati l'anno scorso. Alcuni di questi alberi, 6, sono stati dedicati ai pionieri del Pilastro. Quest'anno intorno a questi alberi abbiamo realizzato un giardino con piante aromatiche e cespugli e rose. Ci sarà appunto la presentazione di questo lavoro il 24 di ottobre, insieme ad alcuni ragazzi delle scuole e a persone che ricordano i pionieri del Pilastro. Il Dom non è un teatro come gli altri. Il Dom è ubicato in periferia, in un quartiere bellissimo ma anche complesso. adesso ed è ubicato in un polo che comprende 3 scuole e credo che il lavoro culturale e il lavoro delle scuole possa camminare insieme. Abbiamo pensato anche a 3 appuntamenti di cinema d'autore, d'animazione che realizziamo insieme in collaborazione con il Dipartimento Educativo della Fondazione Cineteca. Ogni proiezione verrà anticipata da un corto dedicato all'opera di Rodari, però anche in questo caso abbiamo voluto un intervento dal vivo. Normalmente queste proiezioni erano seguite da laboratori teatrali curati da vari artisti o anche da noi. Quest'anno, non potendo i bambini in qualche modo interagire tra di loro, abbiamo pensato di proporre loro un intervento, un preludio musicale che entra in relazione con le musiche del compositore del lungometraggio del giorno stesso. Abbiamo un appuntamento veramente importante, un concerto assolutamente straordinario che vede al DOM in 2 location che sono una di fronte all'altra, cioè da una parte sulla cupola piccola, come chiamiamo noi, e invece nella cupola grande. Abbiamo un duo di musica elettronica che sono gli Underlu, giovanissimi e talentuosi bolognesi, e il grandissimo pianista, un pianista di fama mondiale, che è Alexander Romanovsky. Il programma poi si chiude con il debutto della nuova produzione di Laminarie, che è Invettiva inopportuna. Volevo solo dire 2 parole in merito al titolo. Abbiamo scelto per questa rassegna, è un titolo che ha molti significati, una parola con molti significati. Il titolo è seguito da 2 domande, si chiama appunto Scartare. Le 2 domande sono: cosa succede se una persona, una scuola, un rione deviano da un percorso che sembrava obbligato? Cosa succede se togliamo il teatro al teatro? Questa rassegna in qualche modo tenta di dare una risposta a queste 2 domande, no? Il pilastro era destinato a diventare un ghetto, eppure per fortuna non lo è, grazie all'impegno dei suoi cittadini. Ha deviato da un percorso al quale era stato predestinato, questo tentativo di scartare di lato, cioè questo tentativo appunto di scartare, non so se in avanti, di fianco, ma comunque di continuare a fare quello per il quale ci siamo battuti in tutti questi anni. Poi c'è un'altra questione molto importante che risiede proprio nella nostra attività, coloro che appunto come noi fanno parte della categoria dei lavoratori dello spettacolo dal vivo. Che cosa succede? Ce lo siamo chiesti? Che cosa può succedere al teatro se gli togliamo il teatro? Cosa può succedere se la relazione umana viene interdetta? Naturalmente non abbiamo la risposta a questa domanda se non con le azioni che mettiamo in campo.